Zolt. Fulminati in azienda. Schedula, in questa azienda abbiamo bisogno di più personale. Sì, Marco, abbiamo deciso da 3 anni il blocco delle assunzioni, quindi appunto, non è che io... Appunto, e allora io che sono il direttore generale dico che oggi è ora di finirla con questo blocco delle assunzioni e che dobbiamo iniziare ad assumere nuove persone. Non so, anche la consulenza ci suggerisce di essere cauti con le assunzioni, non è giusto, Paragone? No? Io nel mio ruolo di consulente credo che sia ora di finirla con il blocco delle assunzioni e che sia importante iniziare a riassumere. Bravo, bravo il nostro consulente, bravo, mi togli sempre le parole di bocca, questo è un bel consiglio. Sì, ma se è così, voglio dire, è straordinario. Dopo 3 anni, finalmente noi delle risorse umane potremo di nuovo esaminare migliaia di curriculum, organizzare centinaia di... Per prima cosa è necessario definire con attenzione il profilo ideale dei candidati. Intervistiamo tutti per capire di chi abbiamo bisogno. Ma quale intervistiamo, Schedula? Qui tutti licenziano, noi assumiamo, il candidato ideale è quello che ringrazia, non si lamenta e pedala. Ecco Marco, fatto scrivere da un copy della scuola letteraria della Crusca Macrobiotica il testo dell'annuncio per la ricerca del personale che dobbiamo pubblicare. Lo vuoi leggere? No, guarda, leggi tu, Marco. Ecco. Allora, azienda contemporanea del postmoderno. Sì. Ti cerca, ambizioso, creativo e protagonista per partecipare alla storia del nuovo millennio. Costruirai insieme a noi gli scenari del futuro. Però... Che ne pensi? Trovi che sia un po' alto? Un po' alto, forse anche troppo. Cioè, adesso Marta, va bene che il subalterno neoassunto sia alto, ambizioso, ma che poi non mi ambisca troppo, eh. No, ma che no. Poi per comunicare che in ogni caso cerchiamo un profilo umile e flessibile, inseriamo in mezzo all'annuncio la foto di un giunco flessibile e stilizzato. Che ne dici? Oro su fondo Puglia. Bello, bello, mi piace, Marta. No, scusate, però non possiamo assolutamente uscire sui giornali con questo annuncio di ricerca di personale. Ma cosa dici? Voi delle risorse umane con la crisi avete assunto questo tono così triste, tutti lì solo a pensare a tagliare. No, non è che siamo contrari a fare delle assunzioni, è che qualcuno ha lasciato nella fotocopiatrice l'originale dell'annuncio, lo stagista Pacco ha trovato il testo e quindi adesso... Quindi cosa? Cioè vuole essere assunto lui? Appunto. Allora? E come faccio ad uscire con un annuncio di ricerca di personale quando abbiamo persone che sono già al 30° stage e che giustamente vogliono essere assunte? Ma cosa c'entra, Schedula? Noi abbiamo bisogno di persone nuove. Lui ha già fatto 30 stage, non è mica nuovo, ormai è uno di noi. Direttore, a proposito delle nuove assunzioni, ho provato a spedirvi una mail con le domande suggerite per i colloqui, ma è tornato indietro. Ma no, ma sempre così con questi qui dell'IT, anche stavolta. Aspetta che li chiamo, aspetta un attimo. Pronto? Sono il direttore generale, i consulenti mi hanno appena detto che mi mandano delle mail, ma gli tornano indietro. Ma per forza, si è intasata tutta la mail aziendale. Ma come si è intasata tutta la mail aziendale? No, è che il server non accetta più le mail perché è andato in crash, l'out e l'in. Non ho capito niente. No, in pratica è che sono arrivati 2 milioni di curriculum in risposta all'annuncio e la mail è esplosa. Ma come 2 milioni? Sì, avete scritto nell'annuncio che cercavate persone creative, ambiziose e protagoniste per gli scenari del futuro e la gente ha capito che era un casting per il talent show. Questo è un problema nostro. Comunque voi riparate subito il sistema e i curriculum di tutti questi velleitari vanno rimossi subito. Delete. Sì, ascolti, e dei video con le prove di danza glieli mando? Me li mandi. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3z 2o 1t.